Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio. Troppo furbo per non essere sincero, ma è davvero oro nero. Io perché non dovrei dirti tutto quello che sento nel cuore? Io perché non dovrei parlarti di tutto, anche di un nuovo mio amore? Sei o non sei, sei o non sei al di sopra di ogni mia grande passione. Confusione. Se tu credi che il carbone bruci meglio, è un abbaglio, è il petrolio. Comunque se ami più del fuoco il fumo di un cero, non usare l'oro nero. Ma perché non dovrei liberare qualunque sentimento per chiunque sia? Tanto sai, io non ti sentirò certamente per questo meno mia. Ma chi mai disse che si deve amar come se stessi il prossimo con moderazione? Confusione. Che antico privilegio d'uomo per mia comodità faccio mia, perché tu comunque libera saresti se libera vuoi essere come sono io. Credi che, ma credi che qualcuno possa darti amore se dell'amore suo non è padrone? Confusione.